Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Ci occuperemo anche e soprattutto di Italia oggi, perché? Perché da un lato, come vi hanno raccontato i nostri GR, c'è stato l'intervento nel direttivo del PD del segretario Bersani, che ha chiarito, perlomeno per ora, quali siano gli 8 punti su cui chiederà eventualmente una fiducia alla Camera e soprattutto al Senato, però 8 punti su cui poi si cercherà una maggioranza parlamentare, da quello che abbiamo capito, quindi fuori dalla gabbia dell'austerità, misure urgenti sul fronte sociale del lavoro, salario o compenso minimo per chi non ha la copertura contrattuale, riforma della politica della vita pubblica, tra cui il dimezzamento dei parlamentari, legge sulla corruzione e sul reato di autoriciclaggio, e poi legge sul conflitto di interessi, sulla incandidabilità, e poi economia verde, norme sull'acquisto della cittadinanza, istruzione e ricerca. Sono i punti su cui, da quello che, ripeto, abbiamo capito, Bersani cercherà di vedere anche se c'è una convergenza con il Movimento 5 Stelle. Per quello che riguarda invece il resto della giornata, dobbiamo segnalare sempre con la massima cautela, perché vi ricorderete anche l'iniziativa che abbiamo fatto con Oscar Giannino a suo tempo, Disperati Mai, e bellissima iniziativa, a mio avviso, su un problema drammatico, purtroppo rimasta sola e inascoltata. Lo dico perché il caso di oggi alla Regione Umbria è sicuramente un caso di cronaca nera, nessuno vuole generalizzare. C'è stato però un altro caso ieri di un imprenditore di oltre 70 anni che si è suicidato dopo aver ucciso la moglie. Registriamo dati oggi abbastanza misti sulle tentativi, ahimè, e anche invece su chi si è realmente suicidato. Il punto è che dati alla Caritas alla mano, dati della Banca d'Italia di ieri, dati della Confcommercio di oggi, qui il problema non è più solo di disoccupazione, a mio avviso, che c'è, che è un'emergenza, e di bassi consumi. Qui il problema si sta trasformando in un problema di disagio sociale, come si chiamava una volta, e quindi la difficoltà delle famiglie, ormai noi continuiamo a raccontarla, mi sembra che la politica in campagna elettorale, al di là di qualche vaga parola sulla disoccupazione, si sia occupata principalmente tasse sì, tasse no, IMU sì, IMU no, Europa non Europa. Ci piacerebbe anche vedere qualche accenno un po' più forte per esempio, insomma, è inutile girarci attorno, la proposta di Grillo, che costa tantissimo, 50 miliardi sul salario minimo, in qualche modo viene recepita in questi 8 punti, salario compenso minimo per chi non ha la copertura contrattuale e riduzione o ridistribuzione dell'IMU. Il problema vero è capire qual è lo stato di salute della tenuta sociale in questo momento. Non si può ragionare solo e semplicemente di consumi in calo, di saldi in calo e di disoccupati come dato asettico. E di questo cerchiamo di parlare. È ovvio che lo spettro è quello greco, abbiamo raccontato in questi giorni cosa sta capitando in Grecia e in altri paesi, e sullo sfondo c'è questa austerità, mi dispiace, non è un mio chiodo fisso. Lo dice oggi Sergio Marchionne, che l'Europa deve abbandonare il chiodo fisso dell'austerity. Non lo dice un sindacalista di estrema sinistra, lo dice il numero uno della Fiat, con un approccio, come sappiamo, molto americano, per cui di tutto può essere accusato Marchionne tranne che di avere un approccio da Sud Europa. Ebbene, oggi a margine del Senato dell'Auto ha detto: spero che l'Europa si metta d'accordo su come gestire il problema della crisi e abbandoni questa fissazione dell'austerity, lo dice un manager, fissazione dell'austerity, e comincia a far ripartire la macchina, intesa come macchina europea. Questo nel giorno in cui, secondo quanto diffonde oggi l'ufficio di statistica europeo Eurostat, quello ufficiale, la recessione si è ufficialmente, diciamo così, aggravata negli ultimi 3 mesi del 2012. Il quarto trimestre, infatti, del PIL europeo ha segnato un calo dello 0,6%, e è stato pesante soprattutto il calo delle esportazioni. Lo dice Eurostat, così lo spieghiamo anche agli amici tedeschi. Il calo delle esportazioni è dovuto agli apprezzamenti, cioè al rafforzarsi dell'euro sul mercato dei cambi, ed è questo, secondo Eurostat, l'elemento che più ha contribuito a far frenare l'intera area euro a fine del 2012. Era a livello 1,32 in quei mesi. Nel frattempo però l'ex membro della Banca Centrale Europea Lorenzo Binismaghi, in un intervento sul sito del Financial Times, dice: l'austerità è il risultato della decisione democraticamente assunta da alcuni paesi di attendere sino all'ultimo minuto e sotto la pressione dei mercati per fare le riforme necessarie, pretendendo piuttosto aumentare le tasse, preferendo piuttosto aumentare le tasse. Binismaghi aggiunge: negare questo affermando che l'austerità è stata imposta ai paesi piuttosto che autoinflitta è solo una ricerca di capro espiatorio che rappresenta la più grande minaccia per la democrazia in futuro. Potremmo farci una puntata su questa dichiarazione di Binismaghi, perché è chiaro che alcuni paesi, tra cui l'Italia, non hanno approfittato dei periodi di crescita, e mi riferisco fino al 2007, per fare le riforme, che invece i costi della nostra macchina pubblica sono continuati ad aumentare anche in quegli anni. Ed è chiaro anche che non c'è stata la capacità di tenere sotto controllo il deficit quando l'economia seppur poco cresceva. Però Binismaghi dire che l'austerità ce la siamo autoimposta perché e non ce l'ha chiesta nessuno da fuori, non so lei dove fosse, con massimo rispetto. Io ricordo una Germania che si metteva di traverso a firmare qualunque accordo per fare intervenire la Banca Centrale Europea, per creare un fondo salva stati, per creare un fondo antispread e salvabanche, se non si fosse firmato il Fiscal Compact. Quella non è che ce lo siamo creati noi, Binismaghi. Il Fiscal Compact porta nei prossimi 20 anni l'Italia a dover tagliare di almeno 3 punti percentuali il debito, che vuol dire quasi 50 miliardi di euro all'anno. Quella è una richiesta che è arrivata dalla Germania e dai paesi del nord. Se dovessimo applicarla, l'austerità ce la becchiamo per i prossimi 20 anni. Chiariamo le cose come stanno, lo dico perché delle volte, stando un po' troppo a Francoforte, si perde di vista quella che è la realtà quotidiana e anche la prospettiva nostra. Dopodiché, voglio dire, una lettura leggermente parziale. Abbiamo preferito aumentare le tasse piuttosto che fare le riforme. No, veramente le tasse, intese come IMU e non solo, sono aumentate per la pressione che arrivava dai mercati. Dopodiché Binismaghi, che ha fatto tanti anni la Banca Centrale Europea, sarà sicuramente in grado di spiegarci perché fino al luglio del 2011 il debito italiano era considerato gestibile, lo spread era 80 punti, 100 punti, ed era così da anni, e vale anche per quello spagnolo, e poi improvvisamente a maggio-giugno del 2011 parte l'attacco all'euro. Non ho visto e non ricordo un peggioramento così forte del debito da giustificare un tale attacco, per cui avrei un'opinione leggermente diversa. Allora, 349-238-6666 per i vostri sms, e poi la pagina di Focus Economia su Facebook. Rapidamente le altre notizie in breve. Due precisazioni: nessuno sta giustificando il gesto di un pazzo, di un folle, un atto di disperazione, non scherziamo su queste cose, vale la linea che abbiamo tenuto con Disperati Mai, e cioè non è mai giustificato un atto del genere. Detto questo, è compito di chi osserva la società cercare di capire che cosa stia succedendo, visto che mi sembra che la politica sia impegnata in altro e un po' troppo distante. Primo aspetto. Secondo aspetto, a chi dice che ho preso posizioni grilline, no, guardi, proprio lei non ha capito nulla, ma non importa, perché è un ascoltatore che spesso, diciamo, travisa quello che dico, evidentemente io e lei non ci capiamo. Andiamo avanti invece con le notizie. I mercati: meno 0,30% Milano, meno 0,20% Parigi, più 0,70% Francoforte, invariata Londra. L'America più 0,22%, euro a quota 1,30, chi va bene, Finmeccanica più 3%, Enel più 1,15%, Intesa San Paolo più 0,90, Eni più 0,80 come Prismian, lo 0,70 lo guadagna Snam. Oggi le variazioni per fortuna non sono così significative verso il basso, però Ansaldo perde il 3,50, Saipem il 2,5, Diasorin il 2,20, come Pirelli il 2% lo perde Banco Popolare, l'1,80 il Monte dei Paschi e anche la Popolare di Milano, Atlantia meno 1,70, Luxottica meno 1,6 come Telecom Italia, Enel meno 1,3% come A2A e Azimut. Prima di tornare sull'Italia, due notizie a mio avviso interessanti, soprattutto la seconda. Beh, la prima riguarda un dato statistico. Gli Stati Uniti hanno superato l'Arabia Saudita come il maggior produttore al mondo di carburante in seguito al boom della produzione da siti bituminosi, quindi la sabbia bituminosa, se non ricordo male, da cui è possibile estrarre bitume e ottenere petrolio. Il sorpasso in realtà risale al novembre 2012, quando per la prima volta gli Stati Uniti hanno prodotto 11.654 milioni di barili di petrolio al giorno contro gli 11.252.000 barili al giorno, gli 11.252.000 milioni di barili al giorno prodotti dalla Arabia Saudita. E questo è un fronte. L'altro fronte riguarda invece la guerra, ecco perché le collegavo al petrolio, la guerra in Iraq. Ormai non se ne occupa più nessuno. Al di là di come uno la pensi sui motivi di una guerra in cui queste armi chimiche non furono mai trovate, ma al di là di questo, diciamo, uno poteva anche ragionare come interesse geopolitico degli Stati Uniti. Vabbè, vediamo che è successo. Praticamente la ricostruzione in Iraq, e lo riporta oggi il Congressional Budget Office americano, è costata agli americani, da allora, dall'invasione del 2003, è costata 767 miliardi di dollari. Voglio dire, no, mi chiedo quante politiche si potessero fare anche di carattere diplomatico e non solo commerciale per stabilizzare quell'area con 770 miliardi di dollari. Ma detto questo, gli Stati Uniti hanno speso più di 60 miliardi per la ricostruzione dell'Iraq, ossia 15 milioni di dollari al giorno, per nulla, nel senso che l'Iraq è ancora un paese corrotto, diviso, povero, in gran parte privo di elettricità e acqua potabile. I progetti ancora in corso farebbero aumentare comunque il costo finale per gli Stati Uniti a 811 miliardi di dollari. Dell'austerità e della fissazione per l'austerità, secondo Marchionne, abbiamo già detto, della diversa posizione di Bini Smaghi abbiamo già detto, e anche dell'Ufficio di Statistica Europeo, che ritiene che a far frenare l'Europa a fine 2012 sia stato soprattutto il rafforzamento dell'euro. Però oggi ha parlato anche il Presidente del Consiglio in carica. La definizione corretta è Presidente del Consiglio in carica per gli affari correnti, ossia Mario Monti. E ha ricordato come per un eventuale aiuto anti-spread ci vorrebbe comunque l'approvazione del Parlamento. Credo proprio che ci vorrebbe un'approvazione del Parlamento. Non sono favorevole a cortocircuiti tecnocratici se si tratta di prendere impegni ulteriori per il Paese. Bisogna che sia il Parlamento che assuma questi impegni. Mi auguro che quel momento non venga, e se venisse mi auguro di non essere io né capo né membro di quel governo che debba fare questo passo. Ancora sempre il Premier Mario Monti nella conferenza stampa di Scelta Civica dice: rimando al mittente ogni accusa di avere ecceduto nel rigore finanziario. In realtà Mario Monti articola questo ragionamento sostanzialmente dicendo che non l'avevano deciso loro il percorso per di rientro dal deficit, era stato deciso dal governo Berlusconi, compreso il fiscal compact, e se avessimo chiesto il rinvio del pareggio di bilancio, cioè del deficit pari a zero nel 2013, avremmo garantito il tracollo finanziario del paese. Ricordo, ma lei ce l'ha certamente ben chiaro, che l'anticipo del pareggio di bilancio dal 2014 al 2013 non è stato deciso dal governo attuale, è stato deciso dal governo precedente, e io sono stato puntuale e diligente esecutore di questo. Sono abbastanza orgoglioso di esserci riuscito, perché era un impegno preso per qualche disperazione e che sembrava alquanto inverosimile. Proporre l'ipotesi di un rinvio del pareggio allora sarebbe stato garanzia di tracollo dell'Italia nei mercati finanziari. Per questa ragione respingo al mittente ogni critica di avere ecceduto in rigore finanziario. Sarà anche così, anzi è così, perché gli accordi presi dall'Italia li aveva presi col precedente governo. Faccio solo notare che qui sia Monti con la lista civica, devo dire anche Bersani col PD, autocritica sull'esito elettorale non se ne sente, eh? Cioè, per carità, tutto bene è andato allora. Qualcosa, anche ipotizzare che qualcosa si sia sbagliato, no, non è male nella vita. Tanto ormai, voglio dire, non sta più correndo Monti in questo caso. Comunque, Mario Monti poi dice la cosa più importante nel finale di questo intervento, dice: attenzione, meglio andare a nuove elezioni piuttosto che avere un governo che porta avanti politiche anti-europee. Ogni elezione ovviamente comporta un arresto dei processi decisionali, ma dipende dall'alternativa. Se l'alternativa, lei mi chiede se può permetterselo economicamente e finanziariamente, se l'alternativa fosse un governo, una maggioranza alla quale ovviamente noi non parteciperemmo, orientata a interrompere il tragitto europeo dell'Italia, orientata a interrompere le riforme strutturali che l'Italia ha intrapreso per diventare più competitiva, credo che sarebbero meglio nuove elezioni. Ancora scrive un ascoltatore: lavoro in banca da 15 anni, faccio il direttore di filiali in Emilia. Guardi che i primi tre mesi del 2013 stanno andando anche peggio degli ultimi tre mesi del 2012 sul fronte del rapporto con le imprese dei prestiti. Io la leggo così come la ricevo, al 349-238-6666, però se qualche altro direttore di filiale ha una percezione simile, ci scriva, ci interessa comunque, e anche se l'ha diversa, anche se dice no, guardate che la situazione non è peggiore, accogliamo qualunque sms purché è vero, ma di questo diciamo ci fidiamo. La pensa diversamente da Monti invece il presidente Confindustria Giorgio Squinzi, che a margine della presentazione del rapporto sull'effetto che ha sulla competitività italiana l'aspetto burocratico dell'autorizzazione integrata ambientale, Squinzi dice: attenzione, andare a elezioni sarebbe uno shock per il paese, lo ha detto al microfono la nostra Alessandra Schepisi. Io l'ho già detto con un paio di esempi. Uno è quello della tempesta perfetta, che ho visto poi è stata ripresa anche da Sole 24 Ore, per cui siamo tutti sulla stessa barca, bisognerebbe cominciare veramente tutti a metterci a remare nella stessa direzione. Questo mi sembra assolutamente importante. L'altro è l'appello che ho lanciato, mi sembra venerdì scorso: non abbiamo il Papa, però comportiamoci comunque da cristiani. Cerchiamo di essere tutti uomini di buona volontà che cercano di fare le cose necessarie per far ritrovare la crescita a questo paese, indipendentemente dalle appartenenze politiche, indipendentemente dalle collocazioni nei vari gruppi parlamentari. Credo che tornare al voto sarebbe comunque uno shock e non è realizzabile su tempi ristretti, e poi non so, ritornare al voto con la stessa legge elettorale non mi sembra forse potrebbe non essere risolutivo. No, io penso che veramente bisognerebbe unire le forze e rimettere al centro di tutti gli sforzi del Paese l'economia reale, perché sono convinto che tanti dei problemi che noi stiamo affrontando in questo momento, se l'economia reale ripartisse, verrebbero automaticamente risolti. E poi il commento del Presidente Confindustria sul programma del Movimento 5 Stelle in tema, in questo caso, di ambiente e tutela del territorio. Abbiamo già esternato la nostra totale disapprovazione sia dalle richieste di tipo ambientale sia dalla cancellazione di tutti i programmi infrastrutturali. Ecco, è chiaro che se prevalessero orientamenti di questo tipo il nostro paese andrebbe nella direzione molto precisa di paese tra l'agreste e il bucolico, che non credo sia quello che creerà posti di lavoro, non sarà quello che risolverà i problemi contro cui noi ci stiamo battendo in questo momento di mancata crescita. Adesso fatemi respirare un momento, poi torniamo anche agli sprechi della politica e quant'altro, perché abbiamo dedicato una puntata ieri agli stipendi dei manager, al tentativo in Europa di arrivare a un tetto ai bonus dei manager, soprattutto delle banche d'affari. L'Inghilterra si oppone, Cameron si è alzato in difesa dei 5.000 banchieri della City, perché fa i suoi interessi un po' limitati in questo caso, però non penso che il tema dei super bonus e manager riguardi tante persone al di là di qualche migliaio di banchieri o comunque top manager della finanza e quant'altro. Perché lo dico? Perché c'è una storia interessante, perché la finanza noi non l'abbiamo mica mollata, la nostra ricerca di capire che cosa hanno fatto e che fine hanno fatto quelli che ci hanno portato alla bolla finanziaria più grande del secolo. Prendiamo un caso, perché è interessante vedere come le persone si riciclano. Pensate all'ex numero uno di Lehman Brothers, quella che poi saltò per aria a ottobre del 2008, l'ex numero uno europeo di Lehman Brothers, si chiama Lorenzo Banchetti. In realtà lui è stato numero uno solo per una settimana, però è l'uomo specializzato nel creare derivati, quindi strumenti ad alto rischio, proprio sui titoli di Stato, e aveva contribuito a creare tutta la divisione della banca d'affari statunitense in questo settore, no? Era l'uomo dei derivati in Lehman Brothers, che già detta così uno non gli aggetti adesso, ma non solo, è anche l'uomo, lui ha creato i derivati, no? Per gli apporti in Europa, non è stato l'unico, ci mancherebbe, li gestiva per Lehman Brothers. Adesso sapete cosa fa? Fa il presidente di Eidos Partners e aiuta a far capire agli investigatori, ma non solo, come era complessa l'architettura dei derivati sottoscritti dal Monte dei Paschi e che hanno causato alla banca senese perdite per 730 milioni di euro, con la famosa operazione Santorini, Deutsche Bank, Alexandria, Nomura e Nota Italia curata da JP Morgan. È tutto quel mondo lì, si conoscono tutti a Londra come a Wall Street, sanno benissimo come funzionano queste cose. È un po' come quando il Ministero dell'Interno assumesse un hacker per far capire come non venne violato, solo che in quel caso prendi uno che è un hacker e lo reintegri. In questo caso è uno semplicemente che cambia casacca, cioè prima introduce un'arma rischiosissima se usata male, perché moltiplica guadagni e perdite, poi una volta che il virus si è diffuso ha l'antidoto. A me ricordo un film di James Bond, c'era qualcosa del genere, uno che prima metteva in giro un virus e poi giocava al rialzo a farsi pagare l'antidoto. Comunque Banchetti nel novembre del 2011, è incredibile questa cosa, cioè prima tu eri il numero uno dei derivati, adesso aiuti a capire i casini che i derivati hanno creato in operazioni con Monte dei Paschi. Così si era espresso ai nostri microfoni dicendo: ma non bisogna demonizzare questi derivati, anzi Il mercato finanziario è bene che vigili sul sistema economico. Secondo me i mercati finanziari tengono sotto controllo l'economia. E questo lo dico quasi con un aspetto positivo. Io credo che forse un giorno ringrazieremo i mercati, perché sono i mercati che hanno fatto suonare la sveglia e in qualche modo ci hanno riportato alla realtà. È una realtà ovviamente in questo momento un pochino troppo drammatica, un pochino troppo accentuata, ma sicuramente negli scorsi 10 anni abbiamo vissuto una realtà insostenibile. Era insostenibile il bilancio delle banche, era insostenibile il bilancio degli stati, e in questo momento i mercati appunto hanno suonato la sveglia. No, ma dico, erano insostenibili i bilanci degli stati, delle banche, dei comuni, e voi, dico voi, intesi come Lehman Brothers, JP Morgan, che cosa gli avete proposto? Le coperture con i derivati, che detta in maniera un po' brutale, come uno che ha il raffreddore e digli di farsi fare un giro nudo attorno al palazzo d'inverno, no? Cioè, non mi sembra un gran rimedio. E adesso comunque lui lavora come consulente per il Monte dei Paschi per capire come funzionano gli strumenti in cui il Monte dei Paschi si è infilato, con qualche vantaggio probabilmente anche per i manager. Noi sui derivati invece la pensiamo in maniera un po' diversa, su questi strumenti future ad altissimo rischio che aumentano i guadagni ma anche le perdite. E torna in auge Wall Street, Gordon Gekko 2, quando fa il discorso, a mio avviso memorabile, agli studenti all'università, spiegando quanto lui era quasi una verginella nel primo giro di Wall Street. E hanno inventato tante belle siglette per mascherare il grande debito: CMO, CDO, SIU, ABS. Scommetto che ci sono al massimo 75 persone in tutto il mondo che sanno che cosa sono. Beh, adesso ve lo dico io. Sono solo delle ADM. Armi di distruzione di massa. Mentre ero dentro, ecco che cosa sono. Mi è sembrato che l'avidità sia diventata ancora più avida, e con l'aggiunta di un pizzico di invidia. I signori degli hedge fund se ne andavano a casa con 50-100 milioni di dollari l'anno. Così anche il banchiere si guarda intorno e dice: mica sono l'ultimo imbecille. E comincia a usare la leva finanziaria sugli interessi fino a 40-50 a 1. Con i vostri soldi. Non con i suoi, con i vostri. E glielo lasciano fare. Tanto siete voi che avete fatto il mutuo. E il bello della faccenda è che nessuno è responsabile. Il fatto è che crediamo tutti alla stessa favola. L'anno scorso, signore e signori, il 40% di tutti i profitti societari americani era costituito da proventi finanziari, non dalla produzione o da qualcosa che avesse comunque a che fare con le necessità delle persone. La verità è che ci siamo tutti dentro. Banche, consumatori, tutti muoviamo la giostra dei soldi. Prendiamo un dollaro, lo pompiamo di steroidi e lo chiamiamo leva finanziaria. La madre di ogni male di oggi è la speculazione. Il debito indotto. In conclusione, il vero nemico è il prestito. ...17:41 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Prima di arrivare alla borsa, che comunque ha chiuso in leggero calo, -0,40% Milano, -0,35% Parigi, +0,60% Francoforte, -0,1% Londra, e l'America che guadagna lo 0,20% in questo momento. Dicevo, prima della borsa vorrei occuparmi di Venezuela. Chiaro che, insomma, la notizia politica è arrivata ieri in serata, la morte di Hugo Chavez, già molto malato, presidente del Venezuela, che è morto a Caracas. Però la notizia di carattere economico riguarda, torniamo sempre al tema del petrolio, perché a livello di riserve mondiali, a livello di produzione, la notizia di oggi è che l'America ha superato l'Arabia Saudita. Ma a livello di riserve, il Venezuela nel 2011 è diventato leader mondiale delle riserve di petrolio, superando anche l'Arabia Saudita. Sono praticamente il 18% delle riserve mondiali, quasi 300 miliardi di barili di petrolio, 300 miliardi di barili di petrolio. Al secondo posto l'Arabia Saudita con il 16%, il terzo è il Canada con l'11%, ma lì forse per le sabbie, no? Anche il Venezuela. Avete per motivi analoghi. Di Sissi Bellomo, che adesso presento, che è la collega del Sole 24 Ore, che si occupa anche e soprattutto di petrolio, vive in mezzo ai barili, Dicevo, mi interessava il Canada perché prima parlavamo anche degli Stati Uniti. Sono queste sabbie bituminose, giusto? Sono petrolio non convenzionale in tutti i casi, anche nel caso del Venezuela. Perché sono tutte esplode. Cose un po' diverse. Non convenzionale nel senso che non è il classico che con la trivella vai a trivellare nel deserto come in Arabia Saudita, viene fuori il petrolio. Quello degli Stati Uniti è da shale, sono rocce argillose con petrolio impregnato. In Canada ci sono le sabbie bituminose che invece vanno triturate con procedimenti molto più laboriosi. In Venezuela le riserve sono cresciute perché gli hanno permesso di conteggiare il petrolio extra pesato, un petrolio molto pesante, simile alle sabbie bituminose. Che cioè hanno non nel di ottima qualità. È più difficile da lavorare, è più costoso da lavorare, ma con i prezzi del barile oltre $100 ormai si da anni tutto. Si lavora qualunque cosa. Allora, veniamo però al tema di carattere geoeconomico, perché il 95% di quello che Venezuela esporta è petrolio e derivati del petrolio. Chavez divenne famoso per proprio il modo in cui si sganciò anche dalle compagnie straniere, aveva deciso nel 2007 di nazionalizzare il petrolio, obbligando le compagnie straniere in Venezuela a cedere i diritti di sfruttamento in cambio di partecipazione azionaria al massimo del 40% in imprese sorelle. Exxon e ConocoPhillips rifiutarono e ad inizio 2012 la compagnia venezuelana è stata condannata a pagare $908 milioni alle ExxonMobil. Ma detto ciò, vorrei capire quali interessi si stanno muovendo. Abbiamo letto nel passato anche del colosso petrolifero russo Rosneft, che vorrebbe avviare delle esplorazioni in Venezuela, e quanto la situazione politica, che è intricata in questo momento perché il vice di Chavez dice che l'hanno avvelenato. Già iniziano a esserci tensioni tra diverse frange o fronti, del governo venezuelano. Quanto potrebbe incidere sull'export venezuelano e creare tensioni poi sul prezzo del petrolio? Ma guarda, se si aprisse veramente una fase di instabilità sarebbe effettivamente inquietante per i prezzi del petrolio, per il mercato, perché pensiamo già all'instabilità del Nord Africa, ai rischi geopolitici in Medio Oriente, la crisi iraniana. Se si apre un nuovo fronte, e allora per i mercati petroliferi possono essere problemi, possono essere tensioni ulteriori. Per quanto riguarda il Venezuela in particolare, se invece tutto rimane tranquillo, c'è una successione tranquilla, peggio di così è difficile che vada, perché il Venezuela è un paese sicuramente, come ricordavi, interessantissimo per i partner stranieri, per le compagnie petrolifere di tutto il mondo, le russe, le cinesi che hanno investito miliardi in Venezuela, anche gli italiani, perché l'Eni è presente in Venezuela, nonostante subì anche lei un esproprio, poi ci fu un accordo e su nuovi termini, su nuove basi, ha ricominciato a lavorare lì e ha scoperto un giacimento ricchissimo di gas, tra l'altro perla. E, come ti dicevo, però l'industria petrolifera venezuelana, nonostante queste immense ricchezze, è stata mandata a rotoli proprio dalle politiche di Chavez, che non si sono limitate ad espropri e a rinazionalizzazioni dei giacimenti. Lui ha usato PDVSA, che è la compagnia nazionale, come uno strumento, come una vacca da mungere per finanziare le politiche sociali, che hanno fatto anche del bene ma hanno alleviato in minima parte la povertà estrema di molte frange della popolazione, e in cambio hanno depauperato e reso completamente inefficiente una compagnia petrolifera di cui il 40% delle entrate veniva destinato a finanziare programmi sociali e non a investire nei giacimenti. Il risultato è stato che prima di Chavez, negli anni 90, il Venezuela produceva 3 milioni e mezzo di barili di petrolio al giorno. Oggi, che pure ha scoperto nuove riserve, ha nuove tecnologie, il petrolio costa di più, oggi ne produce 2 milioni e 3, 2 milioni e 4, anche se afferma di produrne ancora 3 milioni. Di barili di petrolio. Di petrolio al giorno, sono in grosse difficoltà. La successione a Chavez potrebbe giovare, in realtà, se ci fosse una situazione più amichevole nei confronti dei partner stranieri, degli investitori e delle politiche economiche di mercato, in realtà potrebbero avere una spinta al miglioramento della loro produzione. Ecco, quanto tu ritieni, Sissi, perché ricordavi come le politiche di Chavez, molto dibattute, molto controverse, abbiano distribuito in parte alle fasce sociali più basse, ma abbiano anche minato la produttività di quello che è la loro gallina dalle uova d'oro, la compagnia PDVSA. Quanto è minata, e soprattutto gli interessi stranieri secondo te potrebbero tornare a riproporsi in quell'area, oppure in questo momento comunque il nazionalismo, che alcuni hanno chiamato peronista, altri hanno chiamato populista, chiamatelo come volete, di Chavez manterrà ancora la presa. Chavez non ha comunque scoraggiato molti gruppi, è vero che Exxon ha rinunciato, ha gettato la spugna, ma altri grandi gruppi sono lì. Se ci fosse una successione tranquilla e lineare, come a questo punto gli analisti ritengono anche probabile, con Maduro probabilmente non cambierà molto. Se invece dovesse vincere l'opposizione con Capriles, allora le cose potrebbero migliorare, perché è un esponente politico più aperto all'economia di mercato, come dicevamo, e potrebbe anzi facilitare gli investimenti stranieri nell'area. Quello che invece sarebbe negativo per i mercati petroliferi, per il Venezuela, per gli equilibri geopolitici, sarebbe una situazione duratura di instabilità, di incertezza, magari anche di disordini, e qualche elemento di tensione, di crisi l'abbiamo visto, anche queste accuse verso gli Stati Uniti, il sospetto proclamato ad alta voce da Maduro proprio che sia stato avvelenato Chavez, sono segnali che qualche dubbio in questo senso lo possono mettere. Ecco, per dirla tutta, e poi chiudiamo, quando si dice che la Germania e l'Europa sbagliano con troppa austerità perché in recessione chiedere tagli vuol dire aumentare la recessione, un conto. Quando però si dice attenzione a non spendere i soldi, non pensare che la mano pubblica possa risolvere tutto, già ci abbiamo un debito stellare, e vediamo cosa ha fatto Chavez con questa sua iniziativa, che apparentemente sembrava anche corretta: prendi i soldi che guadagni dalla vendita di petrolio e li ridistribuisci in programmi di sviluppo sociale. L'idea è assolutamente encomiabile. Il peccato è che però ha sì finanziato con il prelievo forzoso di almeno il 10% la compagnia petrolifera venezuelana doveva dirigere almeno il 10% degli investimenti in programmi di sviluppo sociale. In questo modo ha sì finanziato programmi educativi e sanitari, ma ha anche gonfiato il pubblico impiego. Negli ultimi 10 anni Venezuela ha aggiunto 310 dipendenti al giorno, ne ha assunti, al sistema statale. Si stima che il 50% sia superfluo, siano esuberi. Non è così che si fa sviluppo, non è assumendo e gonfiando la macchina dello Stato, delle province, delle regioni, che si fa sviluppo. Ci abbiamo provato anche noi negli anni 70-80, infatti ci ritroviamo col debito e con i costi che abbiamo. Grazie a Sissi Bellomo. minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Devo fare una rettifica, e ci mancherebbe, perché nel raccontare la storia un po' singolare secondo noi di chi prima era il capo di Lehman Brothers Europa e tra l'altro considerato specializzato proprio nei derivati, negli strumenti a alto rischio, e adesso lavora come consulente per il Monte dei Paschi, per far capire in che cosa è finito il Monte dei Paschi con le varie operazioni Santorini, Alexandria, Nota Italia. Noi ricordava un po' come quando gli hacker prima distruggono i sistemi del Pentagono e poi vengono assunti dal Pentagono, però un po' diverso il caso. Abbiamo detto che si chiama Lorenzo Banchetti, no, è sbagliato, chiedo scusa al reale, immagino che esista Lorenzo Banchetti, è Riccardo Banchetti, attualmente presidente di Eidos Partner. La borsa, abbiamo ancora qualche minuto, certo, e poi la continueremo nella seconda ora. L'euro adesso è sceso sotto quota 1,30, 1,29,90, meno 0,47% nel finale. Bene, Finmeccanica più 2,85%, male Ansaldo meno 2,66%. Allora, no, vedo che qualcuno invece dice che la colpa del Venezuela è delle multinazionali, altro che di Chavez, e mi dà della faccia di cioccolata in qualche modo. No, guardi che abbiamo raccontato la storia dicendo che tra l'altro l'operazione di Chavez aveva anche una sua logica. Il problema sono i risultati: quando gonfi pubblico impiego per motivi anche di consenso elettorale, poi ti ritrovi con un pubblico impiego pletorico. Noi ne sappiamo qualcosa. Si ricorda il termine consociativismo di CPC, cosa un po' vecchia ormai, no? Allora, più 2,85 Finmeccanica, meno 2,66% Ansaldo STS, come sempre con Radio Core, Il Sole 24 Ore. Livia Zancaner, buonasera. Buonasera. Come mai così divergenti? Perché insomma, oggi c'è un articolo su Finmeccanica, proprio sul Sole 24 Ore. Infatti il mercato per quanto riguarda Finmeccanica scommette sulla vendita di Aviospazio, che è partecipata, ricordiamo, al 14,3% a Finmeccanica e all'81% dal fondo CIMVE. Nel Sole 24 Ore oggi ha riportato che i due soci hanno avviato la cessione della controllata Aviospazio, che avrebbe un valore stimato tra i 300 e i 400 milioni di euro, quindi il mercato scommette sulle trattative, quindi su una possibile vendita della controllata. Sì, sulle trattative di Aviospazio, ma diciamo Ansaldo invece qui non c'entra, forse sono i conti di Ansaldo diffusi ieri, no? Sì, Ansaldo ieri ha pubblicato i conti. Secondo gli analisti i conti sono stati leggermente sotto le attese, ma non tali da comportare una revisione delle stime da parte degli esperti di mercato. I ricavi di Ansaldo sono cresciuti del 3%, 1,24 miliardi di euro, e l'utile netto si è attestato a 75,7 milioni, comunque in crescita rispetto ai 73,1 milioni del 2011. Ancora per quello che riguarda i bancari, oggi giornata abbastanza mista, nel senso che Intesa è andata bene, più 0,50 e anche positiva, e anche Unicredit più 0,26%, mentre la Popolare Milano meno 2, come il Banco Popolare meno 2 e devo dire che anche la Popolare Emilia Romagna meno 1%. Questo fronte ieri ci veniva spiegato che il mercato inizia a distinguere tra banche grandi che andranno sotto il controllo della Banca Centrale Europea e banche minori. Qui però mi sembra che il tema sia anche sulle popolari. Sì, allora diciamo che le banche popolari, come ricordiamo, hanno corso tantissimo nelle scorse settimane in attesa di una possibile modifica nella governance, soprattutto per quanto riguarda la Popolare di Milano e il Banco Popolare, cioè un passaggio da banca popolare a società per azioni, quindi comunque dei se ne realizzi in questo momento ci stanno secondo gli operatori. Per contro Intesa San Paolo cerca di recuperare, ha iniziato a salire già ieri, ha consolidato oggi i guadagni con un rialzo dello 0,56%. Ricordiamo che Intesa San Paolo è la banca italiana che ha più titoli di Stato in portafoglio e quindi nelle scorse settimane è stata penalizzata soprattutto dal rialzo dello spread e dall'incertezza sulla situazione politica. La banca ha infatti perso da fine gennaio, dal 29 gennaio a lunedì scorso, oltre il 21%, quindi anche qui ci sta un recupero in questi giorni. Dicevamo, oltre a Finmeccanica, Ansaldo e ai bancari, qualche titolo si è mosso anche sui dati, ma vorrei concentrarmi adesso su Telecom Italia. Il titolo da un lato, ci sono anche comunque andamenti europei, però alla fine perde l'1,32%. Livia. Diciamo che il titolo si è mosso alla fine in controtendenza col settore europeo delle telecomunicazioni, che invece ha guadagnato l'1,40%, ma ricordiamo che il titolo è stato comunque positivo per buona parte della seduta. Le indiscrezioni che hanno fatto volare quindi i titoli delle società TLC in Europa riguardano una possibile fusione tra Verizon e Vodafone, che a Londra ha guadagnato il 6,70% circa. Le due società in realtà stanno discutendo sulle sorti della loro joint venture di Verizon Wireless, che è partecipata al 45% da Vodafone, al 51% da Verizon, e tra le varie ipotesi allo studio vi sarebbero, secondo i rumor, anche una possibile fusione oltre alla vendita parziale della partecipazione da parte di Vodafone. Questo per quello che riguarda le telecomunicazioni. Che è successo a D-Mail, che è un titolo chiaramente più sottile, ma ha guadagnato oggi il 28%, si chiama D-Mail Group, è l'ex D-Mail.it. Sì, allora il mercato diciamo che scommette sull'attuazione del piano industriale, un piano che è stato approvato lo scorso 4 marzo. La società ha infatti comunicato che a breve dovrebbe essere firmato l'accordo con le banche, che è propedeutico all'avvio del piano, e alcuni soci, proprio al fine sempre dare attuazione al piano industriale, hanno confermato l'impegno a fare un aumento di capitale della società fino a 13 milioni di euro, quindi praticamente il mercato scommette sul fatto che la situazione per la società si possa finalmente sbloccare. Dicevamo dei migliori e dei peggiori, visto che abbiamo dato il migliore diamo anche il peggiore: Friendly Energy meno 10,26%, e poi Asco Piave meno 4, Borgosesia meno 4, Banca Popolare di Sondrio meno 3,70%. Tra chi è andato bene invece segnalo anche CDC Point più 9,77%, Italcementi più 5,15%. Grazie Livia Zancaner, Radio Cori Sole 24 Ore. E adesso, come vi ho anticipato all'inizio del programma, torniamo su un tema molto delicato, molto sensibile e anche drammatico nella sua disperazione umana. Ricorderete l'iniziativa che prendemmo, che questa radio prese, il sottoscritto con Oscar Giannino, si chiamava Disperati Mai. Allora, la cronaca è la cronaca, una cronaca nera, mi riferisco chiaramente a quanto è successo oggi nella sede della regione Umbra a Perugia, dove è entrato un imprenditore a cui non era stato concesso un prestito e ha sparato due dipendenti, e questo potrebbe essere archiviato come un drammatico fatto di cronaca. In realtà quello che sta capitando è questa mattina a nord di Firenze un uomo da poco licenziato da una ditta dell'edilizia si è dato fuoco, aveva anche dei debiti. Stiamo ragionando di 8 suicidi al mese dichiarati per motivi economici. Ieri è successo anche a Milano un anziano imprenditore che, schiacciato dai debiti, ha fatto un gesto estremo, mai giustificabile, lo dico subito, ammazzando prima la moglie e poi se stesso. E a me sembra che il punto, al di là della cronaca nera e della drammaticità umana di questi casi, sia ragionare non più e non solo di disoccupazione come dato statistico, di consumi. Anche oggi la Confcommercio ci fa sapere che i consumi sono in calo pesantissimo, mai così male dal 2004, ma ragionare, non parliamo poi della disoccupazione. L'Istat la settimana scorsa ci ha fatto sapere che sono stati licenziati 640.000 dipendenti nel 2012, che vanno a sommarsi ai disoccupati. E oltre ai dati sulla disoccupazione giovanile e quanto ricordato ieri dalla Banca d'Italia, quindi le famiglie, il 68% delle famiglie italiane che non guadagnano, non hanno un reddito sufficiente, con un aumento molto forte di quelli che hanno un reddito insufficiente a coprire i consumi. Mi sembra che da consumi e disoccupazione, cioè elementi statistici, forse il ragionamento debba allargarsi a un tema più di povertà, di disagio sociale vero e proprio. Inutile girarci attorno. Prima di tutto però la cronaca, perché il sindaco di Bari, Michele Emiliano, questa mattina, ieri mattina nel programma di Alessandro Milan 24 mattina, ha detto una cosa molto importante su una vicenda che ancora è tutta in evoluzione, e mi riferisco alla vicenda della Bridgestone Europe, che chiuderà lo stabilimento di pneumatici per autovetture. È un impianto sorto nel 1962, che vuol dire per Bari 950 dipendenti. Sentiamo Emiliano. Ovviamente è un impatto catastrofico, perché si tratta di una fabbrica che, oltre che occupare quasi 1000 dipendenti, ha un indotto analogo, quindi si tratta di una notizia terribile. Le immagini, che io non avevo mai provato la secchezza della bocca dopo aver ricevuto una notizia. Questa è la prima volta nella mia vita che mi è capitato, ed è successo con delle modalità anomale, perché ho avuto la telefonata del prefetto. Pare che praticamente l'azienda dal Giappone abbia fatto una specie di teleconferenza, abbia avvisato improvvisamente i dirigenti della fabbrica di Bari, e i dirigenti sono stati invitati ad andare dal prefetto. E queste sono le modalità con le quali è iniziata questa tragedia. Cioè una cosa veramente improvvisa. Però l'azienda dice: il mercato dell'auto, sappiamo, è in grave crisi a livello mondiale, lì si producono pneumatici da auto, e quindi insomma hanno fatto queste valutazioni, certo molto improvvise, valutazioni economiche molto brutali, e quindi bisogna chiudere. Cosa contestate voi? La modalità o anche il fatto di fare di tutto per tenere aperto l'impianto? Innanzitutto bisogna fare di tutto per tenere aperto un impianto produttivo che ha caratteristiche, come posso dire, di impegno da parte dei lavoratori, che ne fa uno degli stabilimenti con maggiore produttività in Europa. Soprattutto l'idea che non ci sia niente da fare per salvare la fabbrica, cioè che il calcolo sostanzialmente è questo: siccome lo stabilimento produce prevalentemente pneumatici di bassa gamma, l'adeguamento per produrre pneumatici di alta gamma, che sono quelli che invece tengono ancora sul mercato, sarebbe troppo costoso. In più ovviamente incidono, e qui sono fattori nazionali, la logistica, che è una benedetta questione per il Sud, cioè la distanza della fabbrica dai mercati, e il costo di produzione dell'energia, e anche questo è un fattore nazionale. Nazionale. Senta, lei ha detto anche: siamo pronti, se gli operai, se i sindacati sono pronti a forme estreme anche di occupazione della fabbrica, io sono con loro. Cioè lei è pronto a occupare la fabbrica? Beh, sono pronto a stare con loro in fabbrica e a occuparla, perché questo è il mio dovere. Io faccio il sindaco della città di Bari, devo condividere con i miei concittadini tutto ciò che gli succede nel bene e nel male. Piacere, Luigi delle bicocche, sotto il sole faccio il muratore, mi spacco le nocche. Sono un eroe, perché lotto tutte le ore. Sono un eroe, perché combatto per la pensione. Sono un eroe, perché proteggo i miei cari dalle mani dei sicari, dei cravattari. Sono un eroe, perché sopravvivo al mestiere. Sono un eroe, straordinario tutte le sere. Sono un eroe, e te lo faccio vedere, ti mostrerò cosa so fare col mio superpotere. Così appunto il sindaco di Bari Michele Emiliano questa mattina da Alessandro Milan ha ripreso le dichiarazioni già rese ieri. Ma dicevo, cerchiamo di allargare il tema e di capire se non c'è qualcosa che ci sta sfuggendo e sta sfuggendo anche alla politica. Aldo Bonomi, che oltre che essere editorialista del Sole 24 Ore e presidente dell'Istituto di Ricerca Aster, è anche consulente, svolge la sua attività chiaramente gratuita per la Caritas, per il Fondo Famiglia e Lavoro. Buonasera. Buonasera a voi. Allora Bonomi, io ho chiamato lei, che è di formazione un sociologo in questo caso e non un economista in senso stretto, perché a mio avviso la situazione sta diventando quasi troppo difficile per essere lasciata ai soli economisti. Allora è chiaro che i dati di cui parliamo sono dati statistici, però a me sembra di poter dire che al di là dei gesti di disperazione che non stiamo giustificando, mai li giustificheremo, ma non possiamo non parlarne, qui bisogna capire quanto tiene il tessuto sociale. Io le farei vedere, ma non posso, le decine di sms che mi sono arrivati dai direttori di filiale dopo che ho detto un'ora fa scrivete se anche voi, filiali di banca chiaramente, se anche per voi, come ha scritto un vostro collega, il 2013 è partito peggio del 2012, che già è stato un anno in frenata. Allora, lei che cosa nota andando sul territorio, e mi riferisco non parlando solo con gli economisti, ma anche e soprattutto con i piccoli imprenditori, con chi fa appunto attività di volontariato come la Caritas, con chi come le varie camere di commercio cercano di tenere assieme, di dare una mano, di mantenere un minimo di rete di protezione? Ma io noto e sono molto d'accordo con lei, che ha usato una parola che durante tutto il 2012 si è nascosta come fosse polvere da mettere sotto il tappeto, che è la parola povertà. Perché io credo che da quando questa crisi drammatica è iniziata, certamente il tema del lavoro, il tema della disoccupazione, il tema della quarta settimana e delle difficoltà delle famiglie sono state prese in considerazione ovviamente. Aggiungo che ovviamente che la recessione e le misure di austerity senza un minimo di ipotesi di sviluppo che aprisse delle prospettive hanno drammaticamente peggiorato le cose. Però io credo che bisogna mettere nell'agenda, direi, del dibattito economico, del dibattito politico e del dibattito intorno alla crisi il tema della povertà. Lo dico perché anche i dati del Fondo Famiglia e Lavoro del Cardinal Tettamanzi, che ho seguito, tenga presente che è stato sperimentato nella diocesi di Milano, quindi stiamo parlando di quell'asse della città infinita, quella grande area che da Milano va e prende in considerazione tutto il territorio della Brianza, la parte di Lecco, Como, eccetera, quindi diciamo il cuore produttivo della Lombardia. Le ricordo i dati che abbiamo visto nel 2012, 15 milioni erogati, che non sono nulla rispetto alla drammaticità del bisogno, 10.000 domande presentate, 7.000 risposte con una media di 2.000 euro a famiglia o a nucleo che chiedeva le cose. Ma la cosa drammatica che si era già capito nel 2012 è che oltre alle solite figure che potevamo pensare che fossero in difficoltà e in povertà, e quindi diciamo famiglie di immigranti, soggetti in cassa integrazione, operai che avevano perso il lavoro, abbiamo incominciato a vedere venire avanti quelli che si vergognavano della povertà. Cosa intendo dire? Quelli che invece di andare direttamente allo sportello della Caritas a dire ho bisogno, giravano giravano dalla sacrestia, cioè si vergognavano della povertà, cioè quindi una proletarizzazione, un impoverimento dei ceti e aumentare anche quelli che avevano la fabbrichetta in crisi e che non riuscivano più ad arrivare a fine mese. Quindi diciamo che si è visto questa dimensione qua. Ecco, e quindi è questo che fa diventare il tema della povertà un dramma e il disagio sociale. Io vorrei capire, è chiarissima la sua analisi e purtroppo giorno per giorno la stiamo raccontando in questi anni. Mi è meno chiaro perché il tema esca dalla campagna politica, cioè si è parlato molto di più di IMU, di riforma elettorale, di quant'altro che non di trovare delle forme. È vero che il Movimento 5 Stelle, lo dico prima che mi iscriviate, propone il salario minimo di cittadinanza, però è come se fosse un tema che se lo tocchi, non so, ti intristisci, ingrigisci, non fai ascolto, non vieni votato. Da qua il tema è delicatissimo da questo punto di vista. E poi vorrei capire se la sensazione che io e lei la condivide è che quando si parla poi di bisogni veri si tende, e anche la politica lo fa, a delegare tutto o al volontarismo, Caritas, non profit, o delle volte alle forze dell'ordine. Non a caso ho usato e ho detto che era opportuno riprendere questa parola povertà, perché la povertà è dal punto di vista dell'agenda, della politica e del dibattito della nostra società opulenta, usiamo questo termine, è come se fosse uno stigma. E quindi povertà, disagio psichico, tra parentesi complimenti alla finestra che lei ha aperto quando disperati mai, che è stata una finestra importante. Sì, non c'ha, nessun politico ci ha seguito, se lo può interessare. Esatto, una finestra importante aperta da lei e Giannino. Neanche chiamato. Con molto interesse da questo punto di vista, perché era stato l'unico sfogatoio in cui si poteva urlare la propria disperazione, usiamo questo termine, urlare la propria disperazione. Beh, ovviamente viene delegata tendenzialmente, l'odore della povertà non lo si vuol sentire, e viene lasciata o alla Caritas o al volontariato, e viene lasciata anche alle forze dell'ordine, che sono quelle che poi si occupano delle prime emergenze, anche dei conflitti e dei disagi che derivano da questo. Ne sanno di più loro, molto spesso, di tanti altri rispetto a quello che è il problema. Dico questo. E non è stato messo nell'agenda, se mi è permesso, i tre blocchi che si sono confrontati, che sono usciti, diciamo così, come i tre blocchi delle elezioni. Beh, non c'è dubbio che il professor Monti, dal suo punto di vista, ha detto: io ho fatto le mie cose di austerity e di e poi non sono stato in grado di fare altro, ce ne occuperemo dopo. Bersani ha detto: cercheremo di temperare il rigore, ovviamente, probabilmente il fatto che lui abbia vinto perdendo e per il fatto che non è stato, diciamo così, convincente, convincente nel suo discorso di temperare i processi drammatici che ci sono. Dall'altra parte, il forza-leghismo, se vogliamo mettere assieme queste cose, ha lavorato sulla sua base sociale, rivolgendosi a quelli schiacciati dall'IMU, il limo sui capannoni, eccetera, dicendo: se noi arriviamo lo togliamo, ma non ha mai posto il problema della disperazione di quei soggetti e della povertà. E devo dire che il Movimento 5 Stelle, che ha posto il problema del reddito di cittadinanza e anche ovviamente ha fatto una campagna elettorale a tambur battente dicendo: i privilegi della casta ci indignano rispetto ai bisogni drammatici che ci sono, e in questo ovviamente ha avuto un consenso di protesta alto, però ovviamente il tema non era il primo nell'agenda. Io credo che invece ci sia bisogno, anche dentro la drammaticità della crisi che continua e del dibattito politico, di porsi il problema che se andiamo avanti di questo passo abbiamo un problema anche di povertà. Mi dica, abbiamo un minuto e mezzo, però mi dica una cosa, Bonomi, lei quando gira il territorio, e lo gira parecchio, vede comunque una reazione, senza poter attendere i tempi della politica, che creano i vari soggetti presenti sul territorio, oppure siamo ancora allo stallo e allo smarrimento? Credo che un meccanismo profondo di solidarietà orizzontale c'è. questa è la prima cosa da dire, non si aspetta la politica, non si aspettano gli interventi dall'alto, un minimo e un massimo di solidarietà c'è rispetto a questo. Due, vedo che ormai anche le forze sociali tradizionali, il sindacato, le rappresentanze degli artigiani, dei commercianti si pongono questi problemi, perché ovviamente hanno capito che il problema non è più solo l'erogazione dei servizi rispetto ai propri associati, ma siamo a volte di fronte a tematiche in cui bisogna accompagnare il disagio estremo, e quindi un problema di questo tipo c'è. Mi pare che non si sia ancora accolto, nonostante, diciamo così, i numeri che vengono dati da istituzioni ufficialissime come la Banca d'Italia, che lei ha citato prima, ovviamente, che siamo di fronte a un problema di drammaticità, e quindi anche le soluzioni per uscire dalla crisi sono, da questo punto di vista, estremamente urgenti e non riguardano solo il caso drammatico che voi avete citato di Bari, in cui il problema è ovviamente dentro le mura dell'impresa, in cui ovviamente ci sarà giustamente la difesa del lavoro e la posizione ovviamente estrema. Bisogna cominciare a occuparsi anche del silenzio della povertà. Questo mi pare un dato importante. C'è da questo punto di vista un dibattito che viene da quel mondo in cui si sta cercando di recuperare mutualismo, crisi del welfare, auto-organizzazione. Si parla molto di auto-organizzazione diretta, di democrazia diretta, proprio per l'emergere del Movimento 5 Stelle. E beh, mi pare che ci sono anche momenti in cui il tema dell'auto-organizzazione, del mutualismo, eccetera, non va posto solo rispetto sì, alla comunità. Sì, no, ho capito quello che dice lei, però guardi, io sono invece un po' più strutturalista da questo punto di vista. O la politica se ne rende conto o lo dovrà capire per forza, e questo è anche l'effetto dell'affermazione del Movimento 5 Stelle. Gli 8 punti di Bersani di oggi, andateli a vedere bene, riprendono alcuni dei temi del Movimento 5 Stelle. Poi il PD può dire che li ha sempre detti, sarà vero così, ma insomma il messaggio è arrivato e rischia di arrivare anche più forte, lo dico in tempi non sospetti. Grazie Aldo Bonomi, da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi per un'altra puntata di Focus Economia.